a tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scrivere anche su Twitter, @ tutti convocati. Noi abbiamo convocato Graziano Cesari. Buon pomeriggio, Graziano. Buon pomeriggio. Per fare un po' la moviola di questa giornata, che è stata ricchissima di spunti, soprattutto in due partite, Roma-Bologna e Genoa-Juventus. E allora noi da questa domenica vogliamo cominciare a raccontarvi insieme gli episodi della moviola, che sono poi quelli che fanno discutere di più, anche per capire dove stanno andando gli arbitri italiani, cui quest'anno alla vigilia del campionato sono state date indicazioni precise. Graziano, che mi pare di capire anche oggi però non sono state rispettate. Parliamo ad esempio dei capannelli intorno all'arbitro, dove avrebbe dovuto scattare la tolleranza zero. Abbiamo visto parecchie proteste a Roma, a Genova, non solo, senza che i direttori di gara mettessero mano al cartellino. Questo è un brutto segnale. È un brutto segnale perché questo è il concetto a inizio campionato. Nicky era stato molto preciso, Braschi, il designatore, aveva ribadito quello che il presidente dell'AIA aveva detto: noi siamo arbitri che sentiamo, che vediamo, non possiamo tollerare nessun tipo di protesta. Invece, come nelle giornate precedenti, anche oggi sono visti i campanelli di giocatori che correvano contro l'arbitro. Mi riferisco certamente a Genova, abbiamo visto quante volte i giocatori sia del Genova che della Juventus hanno protestato nei confronti di Rocchi, e anche a Roma ci sono state parecchie situazioni imbarazzanti. Sì, è stata da questo punto di vista la partita di Genova una partita difficile. Alla fine Rocchi se l'è cavata bene, diciamo, sugli episodi più importanti. Rocchi, che era un osservato speciale dopo i disastri, mi permetto di definirli così, della passata stagione, in fondo questo era per lui il ritorno ad arbitrare il match di una delle grandi, Inter Milan e Juventus. Diciamo che da questo punto di vista, se sei d'accordo, l'esame può dirsi superato. Sì, direi proprio una sufficienza piena per Rocchi, anche se aveva cominciato molto molto male dopo il gol di Immobile, ammonizione proprio al giocatore a centravanti, la punta del Genoa, per un'esultanza. A me sembrava un'esultanza molto molto normale. Sì, certo, non ha tolto la maglia, è salito sulla balaustra che c'è a Marassi, che divide, sì, dai tifosi. Voglio dire, ma tutti i tuoi radioascoltatori sanno che il campo di Marassi, il terreno di gioco, è quasi vicino agli spalti, tant'è che si possono quasi toccare i giocatori. Non c'è stata perdita di tempo, non si è saltata la maglia. Mi sembrava un eccesso di zelo sicuramente molto molto pignolo in questa situazione. Direi che si possono evitare queste situazioni, anche perché poi a Napoli è successa la stessa cosa. Tu sai che il campo di Napoli, alla pista di atletica, sul terzo gol di Insigne dalla gioia, giustamente, al primo gol del Napoli, primo gol in Serie A, è uscito dal campo, ha festeggiato, ha corso, e non è successo assolutamente e Gervasoni l'ha graziato. Esatto. Ecco, restando invece alla prestazione di Rocchi, c'è stato questo pasticcio sull'ammonizione di Bonucci poi girata su Pirlo. Siamo al 24esimo del primo tempo, un calcio di punizione, c'è un tocco di mano in barriera, Rocchi prima ammonisce Bonucci, ci sono proteste furenti da parte dello stesso Bonucci, che tra l'altro avrebbe meritato il cartellino giallo probabilmente anche solo per questo motivo. Poi Pirlo si autodenuncia, prende il cartellino giallo, ed è fondamentale perché un quarto d'ora più tardi invece Bonucci viene ammonito per un fallo quasi da ultimo uomo, anche se qui non ci stava il rosso. No, assolutamente no. Cominciamo dal primo episodio, il calcio di punizione. C'è una situazione imbarazzante da dire, difficile da vedere, perché la mano di Pirlo, la mano destra di Pirlo, è più avanti rispetto al gomito a squadra alzato di Bonucci, e dalle immagini del replay si vede chiaramente che il pallone tocca il bacio, tant'è che ha un movimento proprio come smorzare il pallone. L'arbitro purtroppo non vede questa situazione e va subito col cartellino giallo a sanzionare. Bonucci platealmente chiede assolutissimamente all'arbitro di linea, all'arbitro di porta, ad Amato, di rettificare la decisione del direttore di gara, e si autodenuncia Pirlo, e il cartellino giustamente indirizzato a Pirlo. Sulla seconda situazione devo dire che il cartellino giallo è ampiamente meritato, sarebbe stato a mio parere immeritato il rosso, perché non c'è una chiara occasione da gol, tant'è che quando Bonucci commette il fallo sul giocatore del Genoa, proprio vicino gli spunta Marchisio. Allora, poi mi dici in un secondo se c'era il rigore su Asamoah, che di fatto gira la partita. Sì, c'è sì. Il rigore, ne sono convinto anch'io. Sta per parlare però Zeman su Sky Sport, sentiamolo. No, penso che abbiamo fatto benino il primo tempo, abbiamo fatto quei due gol e forse ci siamo accontentati di quello. Siamo stati più aggressivi, non abbiamo cercato delle giocate, siamo andati in balia dell'avversario che, con gli spazi grandi che ci abbiamo lasciato, ha fatto bene. Poi è vero che anche tre gol sono tre gol, tutti errori grossolani nostri, e quindi li abbiamo aiutati. Questo Zeman sugli errori grossolani della sua difesa, c'è però forse a Roma, Graziano, anche un errore grossolano di uno dei due assistenti di linea di guida, parliamo di Manganelli, proprio sul gol che al 90esimo decide la partita, il gol di Gilardino, che sembra partire leggermente in fuorigioco sull'assist, anche se poi c'è una carambola con Stekelenburg. Tu come l'hai vista? Sì, secondo me è in partenza, è in fuorigioco, quella del centravanti del Bologna. Ricordiamo che la carambola non fa parte del gioco, perché non si può parlare di pallone giocato assolutissimamente, e in quell'occasione Manganelli, così come era stato preciso prima da annullare un gol di destro perfettamente colto in posizione di offside, questa volta ha sbagliato. Destro che ha rischiato però il giallo, perché esatto, ha tirato dopo il fischio. In questo caso è stato graziato. Graziato un'altra volta. Come vedi, ci sono dei comportamenti non uniformi che in qualche modo possono confondere quelle che sono l'interpretazione anche degli stessi spettatori o telespettatori. Ecco, a Roma c'è stata anche la protesta del Bologna sul 2-0 della Roma. Siamo al 16esimo del primo tempo. C'è un'azione con un giocatore del Bologna che finisce a terra dopo essere entrato in contatto con Pjanic. Esatto, si tratta di Perez. Lamela recupera il pallone, passa praticamente accanto a Perez, che è rimasto a terra infortunato, e va a concludere col sinistro e trova il gol del vantaggio. A stretto regolamento ha ragione l'argentino della Roma a non essersi fermato. Assolutamente immotivate le proteste del Bologna, perché è Perez che commette il fallo su Pjanic, poi rimane a terra. A questo punto, e lo diciamo una volta per tutte, è il direttore di gara che deve interrompere il gioco. In ogni caso, in tutti gli altri casi, si deve continuare a giocare. Quindi Lamela passa vicino al giocatore del Bologna, che in quel momento è a terra, e finge, a mio parere, un infortunio, conclude alle spalle del portiere del Bologna, gol perfettamente regolare, 2-0 da Roma. E questa è la prestazione di guida, per il resto è andato tutto liscio. Certo che quel terzo gol di Gilardino in fuorigioco condiziona e non poco anche i giudizi sulla partita. Ancora qualche secondo di Zeman da Sky Sport. Dalla fase difensiva di tutti insieme, che siamo stati passivi, ma già secondo tempo siamo stati passivi anche centrocampo, dove abbiamo lasciato tante palle giocare a Bologna e non siamo mai ripartiti bene. Ecco, questa è la critica di Zeman alla sua squadra, che ricordiamo è passata dal 2-0 del primo tempo alla sconfitta per 3-2 in casa contro il Bologna. Io vi ricordo i numeri per intervenire: 800 24 00 24, i vostri messaggi al 349 238 6666 oppure su Twitter @ tutti convocati. Ci state scrivendo in tanti su Zeman. Sembrava strano che la Roma di Zeman non fosse come il suo ultimo Pescara. Comunque è anche vero che a Zeman Lagna, se una squadra perde, non saltano i nervi. Vedremo nelle prossime ore poi in realtà la critica di Roma su questo gol in fuorigioco e sulla prestazione dei giallorossi. Ci fermiamo per un minuto di traffico, poi torniamo ancora con la Moviola. Ci sono diversi episodi da analizzare. A tempo di sport. Ci chiedono via SMS al 349-238-6666 e giro a te la domanda, Graziano Cesari. In attesa di Torino-Inter, secondo te qual è stato il gol più bello visto oggi in giornata? Beh, ti devo dire la sincera verità, che ci sono stati talmente bei gol, ma quello in Chievo-Lazio di Hernández. Sì, è stato fantastico per la protezione della palla, per la corsa con la palla sempre nei piedi, e poi questo sinistro che ha battuto il portiere di Chievo. A me è un gol che è piaciuto tantissimo, perché pressione di un giocatore avversario, corsa, controllo del pallone e tiro di sinistro preciso. Sì, Hernández, che è davvero in forma straordinaria, come del resto tutta la Lazio, che delle grandi che faranno le coppe è stata in realtà l'unica a non fare il turnover. Poi avremo modo di approfondire nel corso del nostro appuntamento, che ricordiamo va avanti fino alle 19, anche con il vostro contributo, come quello di Luigi D'Ancona, che ha chiamato all'800 24 00 24. Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Prego. Allora, mi chiedevo, posto che non ho seguito le partite oggi, che quindi non so quanti siano stati gli episodi, i dubbi, e se siano stati superiori alla media in termini di quantità, però volevo dire che la mia opinione riguardo al calcio italiano è che non si può pretendere di inglesizzarlo se poi, diciamo, noi ci concentriamo soprattutto sugli episodi da Moviola piuttosto che sulle belle azioni da gol come quella di Hernández di cui parlava Capuano. Detto questo, riguardo all'ammonizione, mi sembra di Immobile. Immobile, quella dopo il gol, sì, di cui abbiamo parlato prima con Graziano Cesari, che tra l'altro è anche l'autore del giudizio sul gol di Hernanes, non sono io. Dai, prego, Luigi. Chiedo scusa. Beh, riguardo a questa ammonizione, la mia opinione è che non bisogna essere flessibili in certe situazioni, perché poi si vengono a creare quei dubbi che permettano ai giocatori poi di protestare anche qualora non possano farlo. Quindi lei è d'accordo col fatto che sia stato ammonito Immobile, anche se lì di fatto non esiste la pista e quindi diciamo non si perde tempo. Grazie sì. Luigi. Graziano, poi fra qualche istante c'è Carrera, Sky Sport. Guarda, io sono, devo dire che questo caso mi sembra veramente un eccesso di zelo. Io credo che il prodotto finale delle partite di calcio sia il gol. E la testimonianza di quello, e mi piace quando il giocatore, in questo caso Immobile, che ha militato per lungo tempo nella Juventus, è esultato. Odio chi non esulta, odio chi fa finta di non esultare perché ha militato una squadra. Per me è una manifestazione di gioia, perché tutti noi facciamo così, ci piace fare così quando facciamo gol. Non vedo perché si debba proprio prendere il regolamento. C'è un buon senso, è chiaro che se avesse fatto perdere 20 secondi perché il giro della pista, se fosse tolto la maglia e l'avesse sventolata, è una cosa ben diversa, ma così mi sembra assolutamente abbastanza normale, insomma. Rapidamente prendiamo la telefonata di Gianni da Parma sulla Juventus. Gianni, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. La mia domanda è abbastanza banale. Vero. Se serviva un top player, adesso c'era Immobile, se ne è parlato anche quest'estate, rispetto a quel danese che farà tanta panchina. Bettner. Grazie. Sì. Ma certamente Immobile, visto oggi, ha messo in difficoltà per lunghi tratti la difesa della Juventus, anche se io credo in realtà si discuterà molto del turnover che è stato applicato da Conte e Carrera in questa partita, in vista poi della sfida di Coppa martedì a Londra contro il Chelsea, perché è anche vero che la Juventus ha cambiato molto il rendimento, fra primo e secondo tempo, quando via via sono entrati tutti o quasi tutti i titolari, soprattutto Asamoah e Vucinic. Ma guarda, sulla fascia sinistra, è entrato Lichtsteiner sulla fascia destra, soprattutto davanti è entrato Vucinic, le 20 fondamentali di questa Juve, e allora da quel momento in poi la Juventus è veramente attaccata, tant'è che il Genoa per prima 15 minuti del secondo tempo ha avuto una grandissima difficoltà ad uscire. Poi un Genoa che ha giocato forse, a mio parere, al di sopra delle proprie possibilità, perché un primo tempo così veloce, così reattivo, così con un pressing asfissiante a tutto campo, e credo che non sono potesse assolutamente perdere al Genoa, tant'è poi alla lunga sono nettamente calati. Allora, sta per parlare Carrera Sky Sport, cerchiamo di catturare quelle che sono proprio le prime impressioni del tecnico juventino su questa vittoria, che è un segnale importantissimo al campionato, certamente un segnale di forza, tra l'altro che arriva dopo il successo larghissimo a Udine della prima giornata. Allora, sentiamo Carrera. Con te, insomma, c'è questo nuovo gruppo in panchina, poi Vucinic, due assist e un gol, Asamoah un rigore procurato e un gol. Insomma, si parla del turnover. Abbiamo sofferto il primo tempo perché lo sapevamo che Maras era un tempo difficile. Il Genoa è partito fortissimo, ci ha colto impreparati due o tre volte con le ripartenze, però siamo stati bravi a rimanere in partita. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi a aumentare il ritmo, a giocare un po' più larghi e siamo riusciti a ribattere la partita. Questa è la prima impressione di Massimo Carrera. Per proseguire e chiudere invece sugli episodi della domenica, Fiorentina Catania 2-0, c'è stato in apertura sullo 0-0 un gol annullato al Catania a Berghessio, che pare in realtà, Graziano, in posizione di fuorigioco realmente, così come è stata sbandierata. Sì, assolutamente sì, direi che sul cos di Barrientos Berghessio è ben al di là di tutta la linea difensiva viola, mi sembra che in questo caso sono certo che in questo caso l'assistente ha fatto benissimo. Vado complimenti a Dobos, che poi si è ripetuto dopo, quando c'è stato un gol annullato a Roncaglia, con una posizione di partecipazione di offside su una punizione di Ljajic terminata direttamente in rete, ma il difensore della Fiorentina col suo movimento ha partecipato, è stato bravissimo anche Dobos, e poi è stato anche molto bravo sul 2-0 di Toni nel passaggio finale di Jovetic a Toni, era in posizione perfettamente regolare, quindi un bravo, complimenti di grande classe all'assistente. Sì, sono state tre chiamate, una semplice, due non facilissime, è stato bravo perché le ha indovinate tutte e tre. Napoli. No, non ha indovinate, è stato bravo. Sì, è stato bravo, banalizziamo dicendo le ha indovinate, in realtà ci sono ore e ore di allenamento. Napoli-Parma, ha indovinato Gervasoni a non espellere Mirante in occasione del calcio di rigore, nettissimo peraltro, con Pandev battuto dal portiere in uscita? Era fallo da ultimo bravo. Uomo? No, è stato molto molto bravo perché il pallone toccato col sinistro di Pandev andava lateralmente, l'intervento del portiere è sicuramente composto, giustifica sicuramente la concessione del provvedimento tecnico calcio di rigore, ma il provvedimento di ammonizione è quello più adeguato alla realtà dei fatti. E poi anche qui c'è una chiamata su un possibile fuorigioco in occasione della rete del raddoppio di Hamsik, però stiamo parlando davvero di centimetri, tu come l'hai vista? Ah, io guarda, in questo caso devo dire, nel dubbio lasciare andare, e devo dire che questa volta l'assistente bianco è stato eccezionale, perché la linea difensiva del Parma e Hamsik, se c'è un fuorigioco di un'unghia del piede, lo possiamo dire? Sì, era davvero difficile da prendere, esatto, quindi, perché... Devo dire, tra l'altro si trattava di un incrocio molto in velocità, Napoli straordinario in contropiede, certo, anche oggi l'ha confermato. Sì, sì, con la difesa che sale e l'attacco che va verso la porta del portiere, la difesa che va verso il centrocampo, difficilissimo, ma io credo che in questo caso Bianchi sia assolutamente da assolvere. A proposito di chiamate su situazioni simili, molto buona anche la chiamata in Pescara-Sampdoria in occasione della prima rete della Samp, perché Maxi Lopez è dietro la linea del pallone in occasione dell'assist che lo mette in condizione di realizzare il gol dell'1-0. In quel caso è tenuto in gioco da Zanon, giusto? Esatto, giustissimo. In questo caso il passaggio di Eder è un passaggio voluto, cercato. Bravo Maxi Lopez a scegliere la tempistica giusta per buttare poi il pallone alle spalle di Perin. Sentiamo Davide da Milano, buon pomeriggio, ha chiamato all'800 24 00 24. Davide. Buonasera, grazie per la chiamata. Io vi chiamavo per dirvi che ascolto spessissimo la vostra radio, che mi piace moltissimo, e però quando passiamo allo sport cambio, perché parlate solo di calcio, e la cosa la trovo stupefacente quando a me è chiaro che il calcio è un meccanismo che è dominato dal marketing, per cui... è uno sport bellissimo, sicuramente molto telegenico, sicuramente affascinante, in cui noi siamo anche tanto bravi, pur avendo però il 60% dei giocatori che non sono italiani, e noi invece abbiamo degli sportivi fenomenali che ci hanno regalato un sacco di medaglie alle ultime Olimpiadi in maniera stupefacente, e che quando vanno a fare un campionato, non dico italiano ma del mondo, non vengono citati. Mi sembra, Davide, che lei si sia perso la prima mezz'ora del nostro programma, perché una di questi straordinari sportivi, cioè Tania Cagnotto, l'abbiamo avuta in collegamento e abbiamo parlato con lei anche della sua delusione, di come l'ha superata dopo Londra, nel senso che si parla e non solo delle vittorie di questi grandi campioni, è bello anche accompagnarli nel momento in cui si devono rialzare dopo le sconfitte. Comunque grazie per aver chiamato. Graziano, chiudiamo con gli episodi parlando di Chievo-Lazio, dove c'è un bellissimo episodio da segnalare, cioè Luciano che a metà del primo tempo restituisce un calcio d'angolo che era stato erroneamente assegnato ai veronesi, sostanzialmente calciandolo e consegnandolo alla difesa. Bellissimo l'episodio di Frattei, eccezionale, ma non mi stupisco di questo calciatore che già anche in passato aveva dato esempio di grandissima sportività e correttezza, quindi un applauso ancora di più al Chievo, che è una squadra che lotta per salvarsi ma dimostra grandissimo fair play. Ecco, c'è forse un errorino, o meglio, una chiamata al limite di Rizzoli quando dà il calcio di rigore del 3-1, quindi assolutamente ininfluente al Chievo, c'è una piccola trattenuta di Close su Sardo per Rizzoli, che è il miglior arbitro italiano, è calcio di rigore, ci vuole comunque personalità, anche se in realtà la partita era finita. Diciamo che se ne vedono tante di trattenute come queste in mezzo alle aree di rigore. Io preferirei vederle pulite tutte, ma applaudo Rizzoli che ha avuto almeno in questa occasione il coraggio di concedere il rigore. Devo dire che il calcio non è fatto di trattenute, di cravatte oppure di abbracci, ma è fatto semplicemente di andare a cercare un pallone per colpirlo e per buttarlo in rete. A me piace molto questo tipo di decisione. Grazie a Graziano Cesari. Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie per essere stato con noi, vi abbiamo raccontato gli episodi, abbiamo chiamata la moviola, in realtà sono questi poi gli episodi di cui si discute e si discuterà molto ancora nelle prossime ore e nei prossimi giorni per questa terza giornata, sempre in attesa di Torino-Inter di questa sera. Io ricordo ancora i numeri per parlare con noi: 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati invece se volete scriverci su Twitter, dove ha fatto ad esempio Carlo invitando Zeman a pensare ai suoi problemi alla Roma piuttosto che criticare tutti gli altri. Sono in tanti che se la stanno prendendo con Zeman, probabilmente c'è mezza Italia che stava soltanto attendendo la caduta della Roma. Vi dico soltanto che secondo alcune indiscrezioni Zamparini starebbe contattando Gasperini per dargli la panchina di Sannino. Ci fermiamo per il meteo. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms. Io saluto Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport. Buon pomeriggio, direttore. Salve a tutti. Sentiamo qualche frammento di Ferrara, che è l'altro capolista, anche se in realtà avendo un punto di penalizzazione solo a quota 8. Offensiva del Pescara, ed in effetti il primo gol è proprio insomma una giocata di questo tipo, così come il secondo gol di Estigarribia. Però insomma, noi abbiamo fatto la nostra gara e abbiamo sinceramente meritato, sì, certo, la vittoria, anche se nel finale, in quanto squadra anche giovane, forse non abbiamo gestito nel miglior modo possibile il vantaggio. Sta diventando comunque, direttore De Paola, perfezionista Ferrara, eh? È molto cresciuto rispetto all'esperienza alla Juventus. Beh, insomma, gli ha fatto bene, evidentemente gli ha fatto bene anche la parentesi con l'Under 21. È un allenatore che doveva trovare, come dire, una certa gavetta, l'ha trovata purtroppo nell'impatto più duro per lui, cioè guidare una squadra come la Juventus. Evidentemente poi comunque si è ripreso, e questo denota carattere, non si è lasciato abbattere da quella brutta esperienza, o perlomeno quell'esperienza incerta, diciamo così, e adesso è molto maturato e evidentemente, come dire, ha un qualcosa in più rispetto a qualche ingenuità di quella prima, del primo debutto, del debutto. Insieme a Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport, allora cominciamo ad analizzare nella nostra prima pagina quelli che sono i temi della giornata, a cominciare dalla Juventus, che prima ha rischiato il tracollo a Genova e poi si è scatenata, però è fallito il turnover di Conte e Carrera, perché per ribaltare il risultato, salvare la striscia di partite senza sconfitte che ora è a quota 42, sono serviti i titolari, e questo è un campanello d'allarme per i tecnici bianconeri. E poi la Lazio che gode mentre la Roma si butta via, perché la squadra di Petkovic è a punteggio pieno e ha dato una prova di forza a Verona ed è prima insieme a Juventus e Napoli, mentre c'è stato il suicidio di Zeman in casa contro il Bologna, ma fa discutere però la rete di Gilardino in sospetto fuori gioco. E infine il Milan sotto shock dopo la sconfitta, Gagliani che conferma Allegri non si deve preoccupare, ha detto l'amministratore delegato rossonero, però si apre una settimana decisiva, martedì l'Anderlecht e domenica la trasferta a Udine, e davvero in caso di mancanza di reazione il tecnico potrebbe essere a rischio. Questa è la nostra prima pagina. Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport, che cosa possiamo dire della Roma di Zeman? Ma insomma, che ha mostrato un'altra volta ciò che si era visto, diciamo, come aspetti negativi anche nelle precedenti partite, cioè una difesa lenta, una difesa che, se messa sotto pressione, purtroppo non dà affidabilità. L'abbiamo visto sia in Burdisso e sia in Castan, giocatori che probabilmente, diciamo, con la cura Zeman potranno col tempo avere una fisionomia più decisiva, più tranquilla rispetto a queste prime uscite, ma lo avevamo visto già contro l'Inter, lanci di 60 metri che coglievano Cassano, che non è proprio un giocatore, come dire, velocissimo e non anticipabile, eppure lo prendevano, come anche adesso, insomma, Gilardino ha potuto colpire in occasione del primo gol con la testa voltata verso la porta, con due giocatori della Roma appunto che lo inseguivano. Insomma, sono situazioni di gioco anomale che denunciano la lentezza di alcuni giocatori. Le caratteristiche sono quelle, purtroppo. C'è il rischio che sia stata un po' sopravvalutata la vittoria di San Siro. C'è stato grande entusiasmo in queste due settimane a Roma. Io te ne chiedo conferma, ma si è letto, si è sentito tanto. Questo è un po' anche il rischio che si corre sempre nell'ambiente vicino ai giallorossi. Però io direi, insomma, si sono viste tante cose positive, ecco, adesso non bisogna esagerare da una parte o dall'altra, nel senso che la Roma, per esempio quella del primo tempo, è stata eccellente, è una squadra che quando è in trazione anteriore, quindi si riversa nella metà campo avversaria, usa, come dire, questa strategia di gioco anche a scopo difensivo. Nel momento in cui molla un pochettino la tensione della partita, molla un pochettino quella proiezione offensiva, e allora escono fuori un po' le magagne che sono soprattutto in difesa, quindi non solo quello è il reparto più debole, ma una volta messo sotto pressione chiaramente diventa quasi un autogol per la stessa Roma. Bene bene invece la Lazio, davvero una prova di forza quella di Verona. A me personalmente è piaciuta molto anche la scelta di Petkovic di non fare turnover, e cioè giocano i migliori. Questo è un momento in cui la Lazio sta bene, bisogna fare punti, bisogna dare entusiasmo all'ambiente, e quindi ci sono le energie e si può gestire in questa fase il doppio impegno anche senza sacrificare una delle due partite. Ma devo dire che ho trovato saggia anche la strategia del precampionato adottato dalla Lazio. La Lazio in effetti non si è mai nascosta, è sempre stata se stessa ed è cresciuta col passare del tempo, rinviando anche delle belle figuracce, diciamo, nel precampionato, ma meglio lì che magari in campionato. Tant'è vero che è arrivata con umiltà alla prima giornata, alla seconda e anche alla terza, e ha corretto strada facendo quei problemi che riguardavano soprattutto centrocampo e difesa. Chiaramente con una Lazio che ha, diciamo, tantissima qualità nel suo organico, mettere a punto alcune cosette che riguardavano appunto soprattutto il reparto difensivo, che sembrava facilmente scavalcabile, invece abbiamo visto che sono stati trovati dei correttivi a queste piccole disfunzioni. E sono d'accordo che adesso la squadra di Petkovic è una squadra che convince, è piacevole. Noi abbiamo avuto modo anche con un forum qui al Corriere dello Sport. E poi è un personaggio particolare, questo Petkovic. Un personaggio particolare, con i piedi per terra, molto chiaro, molto semplice, che conosce il valore reale della vita, che con i suoi giocatori parla con molta semplicità. Insomma, una bella persona. Sentiamo un attimo Donadoni, che oggi ha perso a Napoli, e poi ti voglio chiedere di questo Napoli che molti in estate davano indebolito per la partenza di Lavezzi, però questo avvio di stagione dimostra che forse la vera anti-Juventus è proprio la squadra di Mazzarri. Sentiamo Donadoni. Che sono due squadre che si sono attrezzate per fare il campionato da prima della classe, non certamente da comprimarie, e quindi hanno caratteristiche diverse. La Juve che abbiamo incontrato noi quest'anno è una Juve che ha cercato di giocare di più rispetto al Napoli, che cerca forse di più attraverso la manovra di riuscire ad essere pericolosa, mentre il Napoli è molto bravo in queste ripartenze veloci con questi attaccanti che si buttano e si infilano negli spazi. Napoli, direttore De Paola, direttore del Corriere dello Sport, assolutamente micidiale in contropiede questo pomeriggio al San Paolo. Si è visto davvero del bel calcio in velocità. Assolutamente sì, però ricordiamoci del 2-1 che ha aperto comunque la strada a una fase un pochettino incerta per quanto riguardava il risultato, poi chiuso appunto con l'intervento di Insigne. Ci sono ancora alcune cose da correggere quanto riguarda la gestione un pochettino del gioco e del risultato. Il Napoli ha facilità a segnare, lo abbiamo visto, ha facilità a proporsi in schemi offensivi, però deve gestire determinati risultati e portare la partita, il risultato in porto con meno affanno. Lo ha fatto appunto quando ha inserito Insigne, forse andava inserito qualche minuto prima, perché il Napoli era stato già pericoloso in altre due o tre occasioni, ma evidentemente o la foga oppure la stessa stanchezza hanno impedito sia a Pandev sia a Cavani di concretizzare occasioni solari, bellissime. Certo, stiamo cercando il pelo nell'uovo, è una squadra che è notevolmente migliorata, appunto, che ha all'interno del suo organico delle ottime soluzioni, soprattutto è la squadra più pericolosa in attacco, lo, vediamo, insomma, è quella che ha 3-4 possibilità e con 3 o 4 giocatori che sono autentici fuori classe. Arriva facilmente nell'area di rigore avversaria. Ti lascio direttore con una riflessione. Oggi hanno segnato Florenzi, Immobile e Insigne. Questi sono segnali belli per il campionato, per il calcio italiano. Tra l'altro sono tutti ragazzi passati per le mani di Zeman e, diciamo, almeno da questo punto di vista, Zeman può essersi preso una piccola rivincita in una domenica amara che l'ha visto perdere e male in casa contro il Bologna. Sono d'accordo, era questo che ci aspettavamo dal campionato. Abbiamo visto partire non solo grandi giocatori ma anche un giovanissimo talento come Ratti, e abbiamo puntato tanto sia sul gioco e sia sulla qualità dei giovani. I giovani stanno rispondendo e si vede con i fatti, appunto. E tra l'altro abbiamo visto uno straordinario Verratti che ha fatto innamorare Parigi con la prima vittoria. I giornali ne hanno scritto ieri, ne hanno scritto oggi. Un talento che davvero può essere qualcosa di importante per il futuro del nostro calcio. Grazie a Paolo De Paola, grazie direttore del Corriere dello Sport. Grazie per essere intervenuto. Allora, io ricordo ancora i numeri per chiamarci e per dirci la vostra su questa giornata di campionato che ha visto la rimonta della Juventus a Genova, il KO della Roma in casa contro il Bologna e poi le vittorie della Lazio e del Napoli, oltre che della Sampdoria, così che in testa alla classifica a punteggio pieno ci sono Juventus, Napoli e Lazio con 9 punti, poi c'è anche la Samp che ne ha 8, ma ha un punto di penalizzazione, una battuta di Lorenzo Insigne che è uno dei protagonisti di questa domenica. Racchetta palle, sono molto contento e spero di continuare così anche grazie ai miei compagni, grazie ai mister che mi danno l'opportunità di esprimermi in campo. Eugenio Corini, buon pomeriggio. Bel talento Lorenzo Insigne, vero? Indubbiamente, buon pomeriggio a voi, è un ragazzo straordinario con grande umiltà, grande voglia di sacrificarsi per la squadra, unito a un talento naturale che l'ha già posto all'attenzione del calcio nazionale con l'esordio appunto della partita scorsa e con inizio di campionato splendido. Ho già fatto un bel gol, è il primo gol, e il primo gol è sempre importante per un giovane che vuole affermarsi. Tu oggi hai visto Chievo-Lazio, quindi noi ripartiremo da qui. Prima però ci fermiamo per un minuto per il traffico. Strade in diretta. Di nuovo buonasera, traffico in aumento sulle nostre strade ovunque, in particolare intorno ai grandi centri urbani. In Liguria sulla 10 Genova 20 miglia per un incidente ormai risolto, ci sono code ora di traffico di circa 7 km fra Pietra Ligure e Savona verso Genova. Altre code sempre per traffico su questa autostrada fra Arenzano e la A26 dei Trafori e sulla 12 Genova Livorno, traffico in coda fra Chiavari e la A7 Milano Genova sempre verso Genova. Ancora pertanto traffico code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per segnalare code a causa di lavori tra Susa e Chianocco Bussoleno per circa 1 chilometro verso Torino. Ed infine sulla tangenziale di Bari ancora disagi con traffico a tratti fermo a causa di un incidente all'altezza di Carbonara in direzione sud. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Una notizia riservata ai commercialisti. La professione è in continua evoluzione, l'attività quotidiana è costantemente sotto pressione ed i clienti hanno sempre nuove esigenze. Lo studio non può continuare con vecchi strumenti software se vuole mantenere profittabilità, crescita ed elevati livelli di servizio. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, elimina la necessità di server, copie e aggiornamenti, riduce i costi, organizza lo studio in modo efficiente, permette di offrire ai clienti nuovi servizi collaborativi online, anche con tablet e smartphone. Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout. Per saperne di più, numero verde 800 41 42 43. A tempo di sport. Di nuovo insieme nella nostra prima pagina di A Tempo di Sport, prima pagina aperta dalla Juventus che prima ha rischiato il tracollo a Genova ma poi si è scatenata, è fallito però l'esperimento di turnover per Conte e Carrera per battere il Genova, infatti sono serviti i titolari entrati nella ripresa. E poi il suicidio della Roma di Zeman all'Olimpico contro il Bologna da 2-0 a 2-3 con gol di Gilardino in fuorigioco al 90esimo, prova di forza invece della Lazio di Petkovic che è prima proprio con Juventus e Napoli, e infine le difficoltà del Milan sotto shock con le parole di Galliani che tranquillizza Allegri. Non è in discussione, anche Berlusconi ha telefonato chiedendo di stare vicino al Milan in difficoltà. Questa è la prima pagina di A Tempo di Sport. Di nuovo buon pomeriggio ad Eugenio Corini. Buon pomeriggio Eugenio. Buon pomeriggio a voi. Allora, dicevamo, tu hai visto la Lazio oggi a mezzogiorno, davvero una prova di forza quella di Verona per una delle squadre che è un po' tra le sorprese di questo inizio di campionato. Sì, sorpresa fino a un certo punto, nel senso che comunque la squadra è stata riconfermata negli uomini migliori. Ha una rosa completa in ogni reparto e devo dire che Petrovic ha avuto un ottimo impatto con il nostro campionato, una squadra che ha trovato un'alchimia tattica giusta dove è sempre molto compatta, ha un giocatore straordinario come Klose davanti che apre spazi e un talento assoluto come Hernanes che oggi è stato decisivo addirittura con una doppietta. Oggi ha vinto anche la Fiorentina di questo signore che sta per iniziare a rispondere alle domande dei colleghi di Sky Sport, che è Vincenzo Montella, che sta rivoltando come un guanto la squadra viola che l'anno scorso si è salvata nell'ultima giornata e con grande fatica e con grande anche difficoltà di rapporti e di polemiche all'interno di tutto l'ambiente. Davvero sembra passato un secolo dalle scene che abbiamo visto ad aprile e maggio alla Franchi. Il merito è anche e soprattutto di Vincenzo Montella. Eugenio, ne sentiamo un frammento, poi parliamo anche della Fiorentina. Montella. Spagnolo, iberico, tutto fosforo, di nessuna matrice muscolare. Fuoco, un'impressione. È un bel calcio che sta facendo la Fiorentina, che è un calcio poco italiano. Oggi in effetti è stata una partita molto difficile, soprattutto nella prima parte. E poi la squadra non ha mai perso la ragione, per rimanere in tema. E ha continuato a costruire il gioco con più velocità rispetto al primo tempo soprattutto, e ha legittimato il risultato, una vittoria che poi è stata anche meritata. Ecco, queste sono le parole di Montella. Eugenio, abbiamo parlato prima con Paolo De Paola, direttore del Corriere dello Sport, della Domenica dei Giovani, Florenzi, Insigne e Immobile. Diciamo che se questo era il campionato anche dei giovani allenatori, Montella è certamente la faccia più bella di questa rivoluzione in panchina. Indubbiamente sta facendo molto bene anche a Firenze dopo il grande campionato che ha fatto a Catania. È andato in una piazza che inizialmente era un po' turbolenta, visto le difficoltà come raccontavi tu dell'anno precedente, è stato molto bravo, la società ha operato molto bene sul mercato, ha portato avanti un'idea di gioco ben precisa e secondo me, lo dicevo anche in sede di presentazione del campionato, la Fiorentina può essere una delle sorprese positive perché ha voglia di proporre calcio, è un allenatore molto bravo e di conseguenza questo inizio sicuramente dà fiducia a tutto l'ambiente. Che cosa mi dici invece della Juventus? Oggi abbiamo visto davvero quanto possa essere difficile fare il turnover per una squadra che l'anno scorso si era abituata a gestire soltanto un grande impegno nel corso della stagione. Oggi ha giocato evidentemente con la testa alla sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea e ha rischiato di perdere la prima partita, di chiudere questa striscia a quota 41 di gare senza essere battuta. Poi nel secondo tempo sono entrati i titolari ed è cambiato tutto. Ma la Juventus secondo me deve farlo quest'anno, secondo me Conte ha fatto la scelta giusta, perché comunque ha dato minutaggio a giocatori come Cáceres, come De Ceglie, che avevano giocato poco per problemi, non erano stati bene. Sicuramente c'è stato anche un pizzico di fortuna, ma anche la qualità di grandi campioni, perché la parata di Buffon su Bertolacci e 20 secondi dopo la grande azione di Vucinic per Giaccherini che pareggia, questo vuol dire che testimonia che l'evento è una grande squadra dove non puoi sbagliare. Peccato per il Genoa, perché ho visto la partita, aveva giocato molto bene, meritava un risultato diverso, ma queste grandi squadre sono così, se non riesci a chiudere la partita hanno sempre giocate importanti e di conseguenza gli va dimostrato ancora una volta, anche in una giornata non eccelsa, il proprio valore. È un po' però un campanello d'allarme, perché la stagione sarà lunga, la Juventus evidentemente ha la necessità di arrivare fino in fondo ai vertici nel campionato, è la favorita e non si scopre nulla di particolare. È anche vero però che la Juventus parte in questa avventura in Champions League con l'idea di arrivare almeno fino a primavera. È un po' un campanello d'allarme questa differenza di rendimento? Secondo me no, perché come ti dicevo prima, d'altronde se vuoi portare in condizione i giocatori devi farli giocare, dunque sai che è un rischio tra virgolette calcolato, d'altronde se giochi sempre con gli stessi rischi poi di sovraccaricarli, di conseguenza secondo me è stato giusto e secondo me questa è una partita, poi tra l'altro avendo scampato il pericolo, avendo vinto, che dà comunque fiducia ai giocatori che avevano bisogno di giocare, hanno giocato, sicuramente la partita dopo la potranno affrontare con una condizione fisica migliore. E secondo me la strada da seguire è quella giusta, e dopo il campionato italiano lo sai che ogni partita può succedere tutto perché trovi squadre sempre attrezzate, ben disposte tatticamente, e dunque è sempre molto difficile vincere in Italia, però per me quello che Conte sta facendo è la scelta giusta. Sentiamo Fabio che ci ha chiamato da Pavia usando l'800 24 00 24 per le nostre telefonate, io ricordo anche il numero per gli sms 349 238 6666. Fabio, buon pomeriggio. Buongiorno, volevo parlare di Roma-Bologna. Da juventino posso dire che diciamo non è una contentezza, però dopo tutto quello che Zeman ha detto sul calcio italiano, sulla Juve, sui giocatori e tutto, penso che la partita di oggi diciamo che abbia zittito un po'. C'è un po' la sensazione che in tanti stessero aspettando Zeman al varco della prima caduta un po' clamorosa in campionato. Però diciamo che quello che è successo oggi così conferma il pensiero dei detrattori. Eugenio, tu cosa ne pensi? Penso che Zeman abbia una grande onestà intellettuale, si può essere più o meno d'accordo con quello che dice. Però ha sempre avuto la forza di dire quello che pensa. Secondo me dovrebbe in questo momento fermarsi e pensare che per lui la più grande vittoria è stata quella di andare a Foggia a fare bene, andare a pescare e vincere un campionato straordinario ed essere ritornato nel grande calcio a Roma. Questa grande chance secondo me si deve concentrare su questo, anche se riconosco a Zeman una bravura come allenatore, una grande onestà intellettuale, però a volte mi sembrano polemiche sterili che lasciano secondo me forse più parlare di questo che invece concentrarsi su quello che è il valore della Roma quest'anno per il campionato che può disputare. Sì, c'è il rischio di disperdere un po' di energie. Ti lascio con un'ultima riflessione che è questa. Abbiamo parlato dei giovani, oggi in realtà è stata anche la domenica dei vecchi perché ha segnato Di Natale, ha segnato Klose, ha segnato Toni dopo nemmeno un minuto dal suo ingresso in campo, e Totti è stato protagonista di un primo tempo straordinario all'Olimpico. Qual è il significato? Qualcuno da casa ci scrive via Twitter a chiocciola tutti i convocati, dimostra che manca in Italia la generazione di mezzo. Ma può essere, però insomma quello che dà fiducia, come dicevi, ci sono giovani di 21, 22, 23 anni che hanno grandissime qualità, la via di mezzo ne abbiamo tanti perché ci sono i Marchisi, i Montolivo, i De Rossi. Secondo me la scuola italiana è sempre stata una scuola molto importante, dato merito a questi grandi professionisti, questi grandi calciatori di essere comunque anche con qualche anno in più dei grandi professionisti, dei grandi calciatori. Siccome chi è capace di giocare a calcio lo può fare a qualsiasi età, è giusto che questi giocatori si meritano lo spazio e le giocate che stanno facendo. Sì, non necessariamente la carta d'identità giovane è sinonimo di qualità. Grazie ad Eugenio Corini. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie ad Eugenio Corini, noi ci fermiamo per il traffico. Prima però rispondiamo a Lorenz da Brescia che continua a chiederci il risultato del Brescia. Brescia che ha giocato in anticipo e ha pareggiato 0-0 contro il Padova. Così abbiamo soddisfatto la curiosità di Lorenz. Ci fermiamo, vi ricordo il numero 800 24 00 per le 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Torniamo subito dopo il GR. A tempo di sport. Vi ricordo i contatti via telefono all'800 24 00 24 o i vostri sms al 349 238 6666. Potete scriverci anche su Twitter, chiocciola tutti convocati, perché oggi è una domenica particolare anche nel mondo dell'informazione che si occupa di calcio. Sentiamo che cosa sta trasmettendo Cielo, il canale in chiaro di Sky in questo momento. È rigore per il Siena. Questi sono gli audio degli highlights che Cielo sta mandando in onda e andrà avanti fino alle 18:15, perché così vuole il regolamento di Lega, avendo Sky acquisito i diritti ad essere la prima emittente a trasmettere i gol della domenica in chiaro. Buon pomeriggio a Eugenio De Paoli, direttore di Rai Sport. Buon pomeriggio a tutti. Direttore, come sta vivendo questo pomeriggio? In molti hanno scritto comunque che il fatto che il 90° minuto perdesse il fatto di essere la prima trasmissione a trasmettere gol in chiaro abbia un valore simbolico forte. Ma io questo francamente non lo so. Noi la stiamo vivendo con estrema serenità, stiamo facendo e seguendo tutta la nostra programmazione come era previsto, con stadio sprint, e fra poco comincerà 90° minuto. Quello che sto vedendo è quello che in qualche modo avevo anticipato, cioè che sembra quasi che loro si stiano controprogrammando da soli, perché se voi andate sul canale 251 di Sky stanno facendo vedere i gol della Serie A. Cioè, sembra un po' così, un po' stravagante. Sì, come, è un'offerta forse non ancora pienamente strutturata, anche se io immagino, e poi parleremo anche di quello che arriverà nelle prossime settimane con Simona Ventura, probabilmente Sky si prenderà un po' di tempo prima di strutturare pienamente l'offerta, però è evidente che in questa partenza, in questo momento, Sky sta facendo controprogrammazione a se stessa. Quindi la risposta tua e della RAI a chi in questi giorni ha scritto che l'emittente di Stato continua a perdere centralità nello sport italiano, almeno a livello di grandi avvenimenti, qual è? Ma che sostanzialmente non è vero, perché noi abbiamo comunque tutta una serie di eventi, grazie a Dio, che ci sono rimasti, di campionati che sono tornati da noi, e questo andrebbe anche sottolineato. Dopo una fugace apparizione su Sky, il basket, la pallavolo sono tutti quanti poi rientrati in Rai, visto che avevano pochi ascolti e pochi ritorni sono tornati in Rai dopo che avevano visto che c'erano pochi ascolti e ritorni su Sky. C'è anche da dire, facendo un passo indietro, che noi stiamo sul mercato e lottiamo sul mercato con un competitor che ha disponibilità illimitate, questo non dimentichiamocelo mai, e che ha fatto saltare di fatto tutti i parametri del mercato dei diritti sportivi. Noi siamo servizio pubblico, amministriamo soldi pubblici, dobbiamo avere una gestione molto più oculata di quelle che sono le nostre risorse. Detto a questo, quelle insomma, cifre è una concorrenza impossibile da sostenere sui grandi eventi. Ma sarebbe impossibile anche se, paradossalmente, se ce l'avessimo, perché francamente arrivare a quei livelli significa veramente sballare tutti i termini e i tempi del mercato, e questo in un momento oltretutto di crisi come quello che stiamo vivendo mi sembra ancora più curioso, ecco, diciamo così, ancora più curioso. Detto questo, insomma, la RAI ha dimostrato anche con le ultime Olimpiadi, con le Paralimpiadi, anche quando è andata in concorrenza diretta con Sky, i numeri, se i numeri contano qualcosa, e penso che i numeri sul mercato contino qualcosa, insomma, i numeri danno sempre ragione alla RAI. Sì, perché gli ascolti in quest'estate gli ascolti in quest'estate difficile, perché in fondo c'erano due grandi eventi come gli europei e le Olimpiadi, che diciamo gli europei vedevano la RAI con l'esclusiva, le Olimpiadi vedevano Sky come televisione ufficiale per quanto riguardava il territorio italiano. Beh, gli ascolti hanno premiato la RAI, anche se, e io credo qui ci sia un po' di amarezza da parte vostra, la critica spesso vi ha stroncato, vi ha trattato male. No, hai ragione, anche se io ti devo dire è un po' uno sport nazionale quello di attaccare sempre la RAI, adesso che sia più o meno giusto. Io poi sono talmente rispettoso del diritto di critica che non entro nel merito. Io direi che la risposta migliore, come ho detto, sono i risultati. Allora, durante le Olimpiadi la RAI Rai 2 ha fatto una media sul daytime, cioè sull'intera giornata, parliamo di 12 ore di dirette al giorno, oltre il 21% di share. La finale di nuoto della Pellegrini, dei 200 metri di Federica Pellegrini, è stata vista quasi da 9 milioni di telespettatori. Allora bisognerebbe farci anche una domanda al contrario, no? Chi e quanti avrebbero visto le Olimpiadi se non ci fosse stata la RAI, visti gli ascolti di Sky? E questa è una. Sugli europei di calcio, il calcio, essendo uno sport nazionale, è anche giusto che sia sempre nel mirino di tutti, neanche della critica, del pubblico, di chi ci segue, per carità di Dio. Però, ed è vero anche che ce l'avevamo in esclusiva, ricordo che siamo arrivati a fare delle cifre di share spaventose tra il 70 e l'80%. Aiutati anche dalla cavalcata dell'Italia di Prandelli, che vi ha portato fino alla finale, poi è andata male, però dal punto di vista televisivo è stato certamente un mese esaltante per chi quei diritti li aveva acquistati e direttore pagati anche molto caro, perché poi gli investimenti li fa anche la RAI sul mercato dei diritti sportivi. Sì, la RAI lo fa seguendo un criterio logico, che è quello della maglia azzurra, no? Della nazionale, che è un bene di tutti, è un bene pubblico. Questa è l'unica logica che in questo momento noi cerchiamo di seguire, anche là nei limiti del possibile, è quello che abbiamo fatto poi con gli europei di calcio. Io sono convinto oltretutto che noi per esempio non avremo le prossime, almeno attualmente non abbiamo i diritti delle prossime Olimpiadi. Le Olimpiadi dovrebbero essere un bene di tutti, un bene tutelato per legge come avviene in altri paesi europei. Quindi vi auspicate in qualche modo che possa esserci magari anche un intervento a livello legislativo? In passato è stato fatto qualcosa? No, ma ci deve essere, perché gli ascolti poi non è che sono sempre fine a se stessi o legati semplicemente a un mercato pubblicitario o quello che è. Gli ascolti dicono che gli italiani hanno visto le Olimpiadi sulla RAI gratis senza dover pagare un abbonamento, e questo non può essere ignorato dal mondo politico. Tornando al 90° minuto, continuare a rimpiangere i palinsesti di 20 anni fa così come erano fatti non è però anche un po' un'operazione nostalgia fine a se stessa? Hai perfettamente ragione, guarda, il mercato della televisione in generale è talmente cambiato negli ultimi 20 anni, ma direi poi soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni con l'intervento del digitale, che insomma veramente diventano operazioni nostalgia, e ti dico che comunque sia aver salvato comprando il pacchetto 6B della Lega Calcio, 90° minuto, stadio sprint, domenica sportiva, sabato sprint, 30 minuti di highlights al giorno per tutta la settimana, che ci consentono anche di costruire, ci consentiranno anche di costruire delle nuove trasmissioni durante la settimana, io lo ritengo già un successo, visti oltretutto i tempi che corrono e visto, ripeto, un competitor che sul mercato fa esattamente quello che vuole. Direttore, se hai un minuto di pazienza, noi abbiamo il traffico, poi volevamo aspettare insieme a te la partenza di 90° minuto, perché c'è ovviamente dalle 18:15 anche 90° minuto, e chiudere con quello che sarà nei prossimi mesi. Parliamo di Formula 1 e di Simona Ventura e il suo Quelli che il calcio, o come si chiamerà, che partirà su Sky, sui canali Cielo. Allora, un minuto di traffico, poi torniamo. A tempo di sport. Nella domenica delle doppiette di Gilardino, Hernanes e Maxi Lopez, 4 i calci di rigore concessi, ma andiamo subito a vedere le prime immagini con Federico. E questa è la voce di 90° minuto, che è partito proprio da un minuto come tradizione oramai quasi secolare, direttore De Paoli, per fare una battuta. Nei prossimi mesi la RAI perderà in parte anche i diritti della Formula 1, questo scrivono molti critici che si occupano di televisione, ad esempio Antonio Di Pollina su Repubblica. Sarà davvero il momento in cui la gente si accorgerà che sta cambiando qualcosa? Davvero, ad esempio, anche la Formula 1 era impossibile da tenere in chiaro per tutte le gare? Sì, perché i costi anche là sono lievitati, perché i costi sono molto importanti, però io anche là direi una cosa: secondo me la Formula 1 sarà un test molto più importante per loro che per noi, cioè se un gran premio sulla RAI, come ha fatto ultimamente Monza, arriva a registrare quasi un 50% d'ascolto, 7-8 milioni di ascolto, e anche là poi ci sarà da fare un ragionamento al contrario, perché qua sembra sempre tutto bello quello che fanno gli altri e meno bello quello che facciamo noi, però poi sono gli spettatori a determinare il successo di un'iniziativa piuttosto che un'altra, al di là di chi poi detiene il diritto nudo e crudo, insomma. Ti faccio un'ultima domanda: Simona Ventura, che è pronta a lanciarsi con una sorta di Quelli che il calcio in versione Sky, che avrà tutti i diritti d'ingresso negli stadi con le telecamere, che cosa dice, che cosa augura? Ah, Simona, io non posso che augurare il massimo, perché io ritengo sia veramente una grandissima professionista, la conosco da tantissimo tempo, la invidio anche un po', ti dovessi dire, perché il sogno nostro sarebbe quello di poter fare una trasmissione dalle 3 del pomeriggio come quella che probabilmente sarà in grado e potrà fare Simona o chi per lei, insomma, quella veramente per me sarebbe un sogno. Detto questo, veramente auguri di cuore a Simona Ventura. E grazie ad Eugenio De Paoli, buon pomeriggio, buon lavoro e buon campionato. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ad Eugenio De Paoli, direttore di Rai Sport. Io saluto subito il collega Furio Fedele. Buon pomeriggio Furio. Ciao, buonasera a tutti, eccomi. Perché dopo aver parlato degli highlights e di questioni di diritti TV, invece parliamo del Milan, sì. Perché di un paio di ore fa sono le parole di Adriano Galliani, che ha cercato di rasserenare Allegri, ha detto stia sereno, lavori per tornare a vincere, dobbiamo recuperare gli infortunati. Anche Silvio Berlusconi ha raccomandato di essere particolarmente vicino alla squadra in questo momento, però tu, come tanti altri, questa mattina avete segnalato che quella che si apre per Allegri è una settimana davvero delicata tra l'Anderlecht e la trasferta Udine. Sì, una trasferta Udine che, se mi consenti, rappresenta veramente uno scontro fra delusissime, la seconda e la terza dello scorso campionato, che latitano in una posizione di classifica che non appartiene a nessuna delle due. Certo, Allegri è di fronte a un bivio, deve ovviamente prendere la strada giusta, quella della resurrezione sua personale, ma anche di un Milan che è troppo brutto per essere vero, soprattutto quello di ieri sera. Ci ha sicuramente meritato di essere sconfitto, anche perché, non dimentichiamolo, l'Atalanta ha colpito un palo clamoroso con Denis. Le parole di Galliani come vanno lette? Sono completamente sincere o comunque quelle frizioni che sono emerse anche in queste settimane segnalano un logoramento nei rapporti fra il tecnico e i dirigenti, e in particolare tra Allegri e Galliani? Parole, sicuramente Galliani in questo momento è sincero, anche perché da abile consumato dirigente qual è, ha capito che il buon senso indica soprattutto calma, un tentativo di serenità e tranquillità che però può essere alimentato solo dai risultati. Però sono parole di circostanza, è chiaro che in questo momento Allegri è sulla graticola. Sicuramente tutte le colpe non sono sue, dopo un mercato estivo che è stato estremamente contraddittorio, anche perché è vero, le partenze sono state eccellenti, ma non mi sembra oggettivamente che gli arrivi siano stati, non dico della stessa qualità, ma comunque sembrano veramente molto molto discutibili in taluni casi. Bisogna vincere, prego, dimmi. Esiste davvero in questo momento il pensiero a un'alternativa ad Allegri? Voi sul Corriere dello Sport lo avete scritto in settimana, avete fatto anche l'elenco di chi più o meno si autocandida o in qualche modo può essere preso in considerazione, a partire soprattutto dall'elenco dei tanti ex milanisti che in qualche modo hanno gravitato su una panchina dopo aver smesso con il calcio giocato. Cioè, esiste davvero nel Milan il pensiero che Allegri possa essere sostituito a breve? Ma bisogna fare due considerazioni. Innanzitutto, che i risultati ovviamente determinano nel calcio qualsiasi tipo di scelta. E poi bisogna anche partire da un altro presupposto, che in cassa non è che ci siano tantissimi quattrini da spendere, e soprattutto per un nuovo allenatore. La scelta più di buon senso, e quella anche in linea con l'attuale regime low cost del club di Via Turati, indica in Tassotti, molto esperto di cose milaniste e sicuramente un tecnico molto preparato, perché sarebbe titolare su qualsiasi altra panchina, indica in Tassotti quella l'unica vera alternativa, anche perché comunque Allegri, esonerato, avrebbe diritto comunque a ricevere regolarmente lo stipendio, almeno sulla carta, fino al 30 giugno 2014. Sì, tra l'altro di un contratto appena rinnovato e che insieme a quello di Conte e Mazzarri è il più pesante a livello economico di tutta la Serie A. Per chiudere sull'analisi del Milan, ieri, pur senza nominarlo, in tanti, Allegri per primo, quando ha detto questa è una squadra che quest'anno deve abituarsi a sudare tutti i risultati per finire ad esempio ad Ambrosini, che ha detto chiaramente che è arrivato il momento di smettere di pensare a chi non c'è più, anche se aveva un tasso tecnico superiore. Bene, pur senza nominarlo, in tanti pensavano certamente a Ibrahimovic. E allora io ti cito due numeri per spiegare anche alla gente a casa quanto sta mancando Ibrahimovic, che nello scorso campionato, quello dei 28 gol, 35 in tutto, ad esempio, per 13 volte è stato il primo marcatore del Milan, con gare di fatto decise da lui, e con lui in rete il Milan ha ottenuto il 75% di vittorie, senza il 50%, con percentuali molto simili a quelle dell'anno prima, dove Ibra, 14 gol in campionato, era stato decisivo ben 7 volte per 4 vittorie di misura 1-0-2-1 e 3 pareggi. Io credo che messi in fila questi numeri deve essere assolutamente chiaro di che cosa è venuto a mancare al Milan in questo inizio di stagione. Ma sai, hai detto giustamente tutto tuo, meglio lo dicono le cifre. Manca sicuramente Ibrahimovic, manca anche un'anima che purtroppo non può essere solo rappresentata da 3 senatori molto importanti come Ambrosini, Bonera e Abbiati. Manca anche un altro difensore di qualità che possa essere di supporto a Bonera, che è cresciuto tantissimo in questi 2 anni di Allegri, ma che evidentemente non trova nei nuovi arrivati, mi riferisco a Zapata e ad Acerbi, ancora dei compagni, di colleghi di grande qualità. Vedremo se magari può essere Metzes questo giocatore, questo campione, che nonostante 2 false partenze, quella dell'anno scorso e quella di quest'anno a causa degli infortuni, dicevo, vediamo se può essere Metzes a mitigare anche una carenza di a livello tecnico che si sta facendo sentire tantissimo. Io personalmente avrei fatto molti sacrifici per tenere Ibrahimovic, che per la prima volta nella sua carriera voleva restare. Aveva voglia di restare. Aveva voglia di restare a Milan e a Milano, supportato anche dalla famiglia. Peccato, perché comunque al di là del brutto carattere, sai, il calcio non è un gioco per signorine, si diceva, e comunque bisogna anche saper gestire certe situazioni un po' antipatiche. Comunque con Ibra partivi sempre dall'1-0 e i risultati si sono visti, 162 punti, un primo posto, un secondo posto, sappiamo anche che campionato è stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, e quello era un Milan vincente. Questo è un piccolo Milan, se mi passi la battuta è un povero diavolo, un piccolo diavolo. Un Milan normalizzato, come scrivono oggi in tanti. Purtroppo mi sembra anche meno che normalizzato, perché non si può pensare, con grande rispetto, grandissimo rispetto di 2 eccezionali realtà come la Sampdoria e l'Atalanta, che il Milan debba perdere in casa, fra parentesi, con un non gioco, con una bulia, con un atteggiamento che non sono da Milan e non sono da grande squadra sicuramente. Grazie Furio Fedele, inviato dal Corriere dello Sport. Grazie Furio. A voi. Per chiudere, prima della pausa, per la pubblicità, Giuseppe da Bergamo. Buon pomeriggio Giuseppe. Buongiorno. Prego. Buonasera, anzi. Io ho sentito quello che stavate dicendo, sono tifoso del Milan, e volevo aggiungere solo questo, che non è possibile preparare una stagione quando i giocatori arrivano sempre all'ultimo giorno. Il campionato comincia il 31 agosto, la campagna acquisti secondo me deve finire il 31 di luglio. Non è possibile avere giocatori così che non si conoscono, gente che non sa i movimenti. Ma secondo lei, da tifoso milanista, le responsabilità di queste difficoltà sono in parte di Allegri, o anche lui è vittima di scelte legittime, per amor del cielo, societarie? No. Allegri o qualcun altro non cambia niente, lì ci sono giocatori che non sono a posto fisicamente, che non si conoscono, che è cambiato totalmente l'impianto della squadra. Sono d'accordo con Furio che parlava prima, che naturalmente il livello è sceso, non si può più pretendere quello di prima, e sono d'accordo anche con la società che è meglio risparmiare 40 milioni di stipendi, perché vorrei finirla che Milan e Inter facciano il Babbo Natale tutte le volte che arrivano a comprare un giocatore. Però sì, sono cambiati anche i tempi. Però bisogna anche capire che bisogna dare tempo all'allenatore di sistemare la squadra. Io ho giocato quando avevo 20 anni a livello provinciale, ridicolo, perché ci trovavamo ai primi di agosto, il campionato cominciava a metà settembre. Pensare in poche settimane è davvero un'impresa difficile, quella di costruire il Milan. Grazie a Giuseppe da Bergamo. Io ricordo i numeri 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, chiocciola tutti convocati per i vostri tweet su Twitter. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità. Con Riparti con Eni avete fatto 50 milioni di rifornimenti facili e convenienti all'Iperself. Ma Iperself conviene sempre, tutti i giorni, giorno e notte, perché l'impegno di Eni a starvi vicino non finisce mai. Ho trovato l'università ideale. Quale? L'università iCampus. Seguo le lezioni da PC o tablet e ho un tutor in città che mi segue. Pratica, serie di qualità, come piace a me. Fantastico. Università iCampus. Ingegneria, psicologia, economia, giurisprudenza, lettere. Vai su uniecampus.it o chiama 800 410 300. La radio è accesa, la solita pubblicità, banche, merendine, auto. Poi a un tratto senti che qualcuno ti cerca e pensi, chi? Io? Sì, tu. Proprio tu. Nuova classe A ti sta cercando. Fatti trovare. Tecnologia, connettività, design, sportività e sicurezza senza precedenti ti aspettano il 15 e 16 settembre negli showroom Mercedes-Benz. Info mercedesbenz.it. Nuova classe A, il presente che cambia il futuro. Cambiare è possibile. Cambiare le cose, il mondo, a partire dai gesti di ogni giorno. Sono piccoli passi, ma si comincia così. Prendi parte al cambiamento con il tuo progetto di startup. ING Direct ti invita a partecipare a un concorso di merito. Potrai vincere un contributo di 100.000 euro per avviare la tua idea di cambiamento. Fai il primo passo. Vai su www.prendipartealcambiamento.it o sulla pagina Facebook di ING Direct Italia. I am happy, I'm feeling glad I got sunshine. 89-24 Chiama! Fino al 5 ottobre puoi vincere un giro del mondo in 89 giorni per due persone. Voli, alberghi, escursioni, ristoranti. Pensiamo a tutto noi. Info e costi 89-24-24.it. Regole per la spesa intelligente. Numero 167. Compra il panettone il 12 giugno. È un affare! Oppure segui l'unica vera regola della spesa intelligente. Entra da Eurospin. Selezioniamo per te solo prodotti di qualità al miglior prezzo. Dal 13 al 22 settembre, ad esempio, un litro di latte intero Land a 55 centesimi e 6 brick da 200 ml di succo e polpa alla pesca o alla pera Puerto Sol a 89 centesimi. Eurospin. La spesa intelligente. Stabilire una con chi guida. Sinergia assoluta. Grazie a tecnologie attentamente per essere intuitive, progettate, in grado di definire, confortevole ed evoluto, come non mai, un nuovo tipo di viaggio. Nuova Audi A3. Sposta tutto più avanti. Anche con pacchetto business che per la versione Ambition include sistema di navigazione, regolatore di velocità, sistema di ausilio al parcheggio posteriore e fare Xenon Plus con un vantaggio cliente del 42%. Scopritela negli showroom Audi. L'oceano, che emozione! Ma siamo sicuri che per risparmiare fino al 50% sui prezzi di voce internet, fisso o mobile, bisogna attraversare l'oceano? Ehi là! Uomo in mare! No, uomo dal braccio rosso. Salva gente, offre la casa. Se scegli Impresa Semplice per il tuo lavoro, puoi risparmiare fino al 50% su voce e internet, fisso o mobile, per 6 mesi. Capitani, prua verso terra! La promozione è valida fino al 31 dicembre. Impresa Semplice di Telecom Italia, il braccio destro che fa per me. Per info e condizioni dell'offerta in promozione, vai su impresasemplice.it. A tempo di sport. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, chiocciola tutti convocati per i vostri tweet, per commentare i temi di questa terza giornata come fatto Daniele da Pavia. Buon pomeriggio Daniele. Buonasera. Prego. Complimenti alla trasmissione. Niente, io chiamo, innanzitutto sono un tifoso interista, chiamo però per difendere Allegri. Secondo me, ripeto, è un grande allenatore, anche perché non dimentichiamoci che al primo anno è stato in grado di vincere uno scudetto gestendo delle personalità importanti all'interno dello spogliatoio, perché non è facile, lei lo sa meglio di me, gestire magari Ibrahimovic. Ha fatto fuori pian piano Pirlo, con tutte le critiche che poi ha ricevuto per questa scelta, e ha vinto lo stesso lo scudetto. Quest'anno, io ho visto ieri la partita, i giocatori sono quelli, per cambiare in corsa, tutto rispetto per De Sciglio, però non aveva giocatori da mettere dentro, aveva Nocerino e Bojan, però non ha neanche giocatori per cercare di ribaltare il risultato. È difficile, secondo me, gestire quest'anno il Milan. Sì, Daniele, ho l'impressione, Daniele, che la cosa più difficile in realtà da gestire per Allegri in questa stagione, più dello spogliatoio, siano le attese di chi sta sopra Allegri. Io penso, mi corregga se sbaglio, che ad esempio le parole di Galliani sulla necessità di lottare per lo scudetto dopo aver acquistato De Jong e Bojan non abbiano fatto un favore ad Allegri, abbiano messo una pressione che è difficile sostenere in un momento in cui il Milan non è nemmeno ancora all'inizio di un progetto. Assolutamente, poi nel calcio bisogna essere anche un po' realisti, cioè adesso Galliani ci è abituato anche a farci credere ogni volta quello che vuole lui, perché adesso, tutto rispetto per De Jong, è un buon centrocampista, ci voleva, ma il Milan come l'Inter d'altro sono squadre da quarto posto quest'anno, vedo molto meglio il Napoli e questa Lazio che oggi mi ha impressionato vedendola giocare. Davvero impressionante la Lazio. Grazie Daniele da Pavia. A proposito di Milan, ci scrive anche un amico da casa, il 349-238-6666, che in fondo il Milan ha un punto più dell'anno scorso e due anni fa perse a Cesena per poi partire e vincere lo scudetto. È vero, due anni fa addirittura Allegri partì con un punto in più soltanto rispetto ad oggi, con 4 punti nelle prime 3 giornate, poi vinse lo scudetto. L'anno scorso i punti erano 2. Il Milan è da 6 anni che parte male, perché già con Ancelotti negli ultimi 2 anni aveva fatto prima 5 e poi 3 punti e poi 4 punti con Leonardo. Però è anche vero che mai come questa volta, cioè con tanti cambi e con la necessità di ottenere un po' di chiarezza e di autostima subito, avendo perso giocatori importanti come Ibrahimovic e Thiago Silva e come quasi tutti i senatori che governavano lo spogliatoio, beh, mai come quest'anno Allegri avrebbe avuto bisogno di ottenere subito un po' di fiducia dai risultati. Roberto da Milano, buon pomeriggio, ha chiamato all'800 24 00 24. Sì, buon pomeriggio. Prego. Sentivo l'intervista al direttore di Rai 2, non so se Rai Sport. Rai Sport. Eugenio De Paoli, prego. Esatto. Coglievo un imbarazzante ottimismo nei dati che riportava, perché in effetti Sky aveva 12 canali olimpici, la Rai 1. Rai ha comprato 200 ore da Sky di canali olimpici, e quindi con queste 200 ore ha dovuto sfangare una manifestazione che è durata 15 giorni, facendo delle dirette dopo gara utilizzando i fermi immagine per non bruciarsi le immagini acquistate. Le Paralimpiadi Sky aveva 5 canali, la Rai ne aveva 1. E poi è anche vero che ad esempio la medaglia di Zanardi l'abbiamo vista soltanto sulla Rai in diretta, ma questo non per difendere la Rai, il discorso che faceva De Paoli era diverso, diceva è evidente che noi non possiamo competere a livello di risorse da gettare sul mercato dei diritti televisivi con un colosso come Sky. È però altrettanto oggettivo, almeno fino a quest'estate, che poi i numeri, ma è anche fisiologico perché la Rai va comunque in chiaro e Sky è comunque una piattaforma che necessita di un abbonamento e di un satellite, beh, i numeri comunque da questo punto di vista anche in quest'estate e anche su questi grandi eventi hanno premiato la Rai. La Rai ha anche un canone, se non sbaglio. Sì, ma non c'è dubbio, assolutamente, però faceva il discorso sugli ascolti. Ma difatti non c'è niente di gratis, e questo per rispondere anche ai tanti, esatto, che ci hanno scritto via SMS al 349-238-6666 lamentandosi di questa parolina usata da Eugenio De Paoli, cioè gratis. È vero, la RAI viene in realtà pagata attraverso il canone, quindi di gratis non viene dato nulla ai telespettatori italiani. Dopodiché il discorso sugli ascolti è un discorso oggettivo. Io saluto e ringrazio per essere con noi in un pomeriggio di grande lavoro per lui Paolo Beltramo, collega inviato di Mediaset per il MotoGP. Buon pomeriggio Paolo. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a tutti. Sei a Misano, è stato un bel pomeriggio per noi italiani. È tornato Valentino Rossi sul podio. Sì, è stato, diciamo che secondo era già stato Le Mans proprio quest'anno, ma sul bagnato. È stato il primo podio da quando corre con la Ducati, quindi dal 2011, sull'asciutto, quindi ancora più importante perché sono condizioni più vere, diciamo, ed è stata una bella giornata anche perché Alvaro Bautista, il pilota che ha preso il posto di Marco Simoncelli al Team Gresini, con quei colori lì, con quella moto lì, è riuscito a fare il primo podio della sua carriera in MotoGP. Insomma, qui sul il circuito di Misano dedicato a Marco Simoncelli alleggiava un po' lo spirito di Marco, ecco, non so come dire. E l'ha detto anche Valentino Rossi. Allora partiamo proprio da qui per parlare del libro che tu hai scritto insieme a Rossella e Paolo Simoncelli, che sono i genitori di Marco Simoncelli. Il nostro SIC è il titolo, con il ricavato che andrà in beneficenza. Beh, anche Valentino Rossi ha ricordato Marco Simoncelli dopo il suo podio. Sentiamolo proprio al tuo microfono. Devo ringraziare un sacco di persone che comunque hanno sempre creduto di potercela fare anche nei momenti più difficili, ecco. A partire da Uccio, che prima di venire qua mi aveva detto partiamo in seconda fila e facciamo il podio. E io le avevo detto, cazzo dici, impossibile. Invece ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo, tutti i ragazzi della Ducati, È un grande risultato perché intanto è qui a Misano, quindi lo voglio dedicare assolutamente al Siz, alla sua famiglia, Paolo, alla Rossella, alla Martina. Secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. E poi a tutti i ragazzi che lavorano con me, tutti i ragazzi della Ducati, che comunque ci voleva perché sono stati 2 anni difficili, quindi un bel risultato anche sull'asciutto era importante. Perfetto Vale, grazie, ci sentiamo dopo. Ciao. Bravo, ciao. E questa era la voce di Valentino Rossi con questa bellissima sì. dedica a Marco Simoncelli. C'era anche la tua di voce perché l'intervista era vabbè. Evidentemente tua, voce presa da Italia 1. Hanno detto i genitori di Marco, è stata una scelta naturale quella di scrivere questo libro e di condividere tanti segreti, tanti ricordi, una scelta inevitabile dopo i tantissimi attestati di affetto ricevuti in questo anno che è quasi trascorso dalla morte di Simoncelli in Malesia. Io direi che è stata forse una scelta naturale, ma anche una scelta difficile, perché in effetti nel libro diciamo che hanno messo molta intimità, molta anima. Ci sono dei temi di Marco quando aveva 10-11 anni, ci sono del diario che mamma Rossella aveva scritto con l'intenzione di regalarlo un giorno a Marco adulto, che Marco non ha mai letto. Ci sono dei ricordi di tante persone, di amici, di compagni di scuola, di professori. Diciamo che hanno avuto il coraggio e la voglia di svelarsi molto, di rendere pubblico del molto privato. Secondo me questo è la cosa più, è un atto d'amore nei confronti di Marco, perché è una voglia di farlo conoscere a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente com'era davvero. Secondo te è davvero tutto sincero l'omaggio postumo che è stato riservato in questo anno a Marco Simoncelli, che lo ricordiamo in pista in realtà era un pilota non sempre simpaticissimo per i colleghi avversari? Beh, diciamo che oggi c'è stata la dimostrazione che anche gli spagnoli possono sbagliare al primo giro. È stato Bautista, ha steso Lorenzo ad Assen, e Barberà ha steso Pedrosa qui. Per cui insomma non era solo Simoncelli quello che sbagliava al primo giro. Quindi secondo me era antipatico, come sono antipatici tutti quelli che ci provano, nel senso che poi quando corri in realtà, ma a Marco poi alla fine dimostrazioni d'affetto tra le più profonde sono venute proprio da Pedrosa, da Lorenzo, da quelli che magari lo avevano criticato di più. Anche da Valentino Rossi. Valentino era un suo amico, quindi questo ci sta tranquillamente. Correvano insieme alla cava, si sportellavano coi go-kart, insomma era... Comunque Marco era uno, al di là di tutto, era un guerriero in pista, dolce nella vita, era così, era lui, era sincero. Io poi fra l'altro penso che molti dicono io non l'ho conosciuto, in realtà un po' di Marco Simoncelli l'hanno conosciuto veramente tutti, perché quello che sembrava in televisione era lui davvero, cioè lui non mediava, non fingeva, non recitava, era lui. Mancano un po' dei grandi personaggi, cioè personaggi al di là delle capacità in pista, capaci di attirare la gente. Simoncelli era un ragazzo che piaceva molto ai suoi coetanei. Sì, io diciamo che durante non ce ne avevamo forse resi conto, né noi che lo frequentavamo, che lo vivevamo qui, né forse neanche lui, che è rimasto, cioè cambiando con l'età, crescendo, maturando, ma comunque rimanendo sostanzialmente sempre lo stesso, di questo affetto. Probabilmente questa sua serenità, questa sua felicità, questo suo essere vero aveva colpito, era andata molto più profondo di quello che ci potesse percepire prima, ecco. Poi dopo ci sono state dimostrazioni d'affetto, secondo me in linea di massima sincere, cioè non so, i funerali hanno fatto più di 6 milioni di spettatori il giovedì pomeriggio alle 3:30, ecco. Sì, evidentemente aveva colpito molto la fine di questo ragazzo in Malesia, tra l'altro in Mondovisione. Per chiudere, ricordando il nostro Sic scritto da Paolo Beltramo, collega inviato di Mediaset sulle piste del moto mondiale insieme a Rossella e Paolo Simoncelli, che sono i genitori di Marco Simoncelli. Oggi ha vinto Jorge Lorenzo, Pedrosa è stato di fatto eliminato al primo giro, più 32 in classifica mondiale. Mi dici in 10 secondi se questo mondiale si sta instradando verso Lorenzo? Io direi sì, anche perché poi in realtà ti correggo, è più 38, perché c'erano 13 punti, quei 25 conquistati a Frosinone. E allora maggior ragione. A maggior ragione, diciamo che ha pareggiato l'errore di Bautista che aveva steso Lorenzo ad Assen, però in realtà a noi ci sarebbe piaciuto di più che il mondiale fosse rimasto più aperto, certo, così con 38, però ce ne sono ancora 5 gare, quindi 125 in palio. E come si è visto in questo sport, tutto può succedere. È sempre possibile qualcosa. Grazie a Paolo Beltramo. Prego. Grazie per essere stato con noi. Io chiedo un istante di pazienza a Paolo da Bergamo e Giovanni da Verona. Ci fermiamo per il traffico e poi prendiamo le loro telefonate. Traffico. A tempo di sport. Da casa via SMS al 349-238-6666 ci scrivono: le Olimpiadi di quest'anno hanno avuto la peggiore copertura televisiva in chiaro di tutta la storia delle Olimpiadi. Probabile, evidente, del resto la RAI aveva un pacchetto molto limitato di diritti e su quasi tutti i campi anche l'impossibilità ad inviare i propri commentatori e i propri giornalisti. E poi ancora Luigi invece che ci scrive: mi sapete dire come mai non si vedono più il campionato spagnolo e la Bundesliga in Italia? Non si vedono perché Sky, almeno fino a quest'ora, non ha acquistato i diritti. La motivazione ufficiale è che questi diritti costavano troppo, circa il doppio della passata stagione, però risultano essere ancora aperte delle trattative e già in passato, ad esempio, la Liga in una stagione arrivò ad ottobre sugli schermi di Sky per poi essere trasmessa per tutto il resto della stagione. Paolo da Bergamo, buon pomeriggio. Sì, salve, buon pomeriggio a voi. Prego. Grazie per avermi dato la possibilità di poter esprimere comunque la mia opinione. Volevo parlare un attimino dell'argomento Milan e del disastro dopo 3 giornate e vorrei porre un paio di domande. La prima è: mi chiedo come mai un dirigente di alto livello come Adriano Galliani non abbia ancora capito. Siamo d'accordo per quanto riguarda le cessioni, i finanziamenti, pareggiare i bilanci e tutto quanto, però ci sta una grandissima differenza nel cedere 2 giocatori come Thiago Silva e Ibrahimovic. Ibrahimovic abbiamo fatto dei grandi sacrifici per acquistarlo, l'abbiamo rivenduto, abbiamo preso tantissimi soldi, ma non c'è stato un rimpiazzo adeguato per sostituirlo e queste 3 giornate. Io credo però, Paolo, che più che con Galliani questo discorso vada affrontato con Berlusconi, perché evidentemente Galliani risponde a degli input societari. La richiesta che veniva fatta dalla proprietà era quella di abbassare sensibilmente il monte ingaggi, di cancellare il passivo record da 70 milioni degli ultimi anni, e quindi Galliani, per quanto manager da dipendente, non può fare altro che allinearsi a quelle che sono le richieste della proprietà. A proposito di Galliani, ne abbiamo parlato prima con Furio Fedele e allora ve la facciamo sentire, la voce di Galliani che tranquillizza Allegri. Allegri può stare tranquillo? Assolutamente sì. Non è in discussione assolutamente? No. Serve vincere qualche partita, solo quello. Martedì c'è la Champions. Martedì c'è la Champions e speriamo di iniziare a vincere. Bisogna stare sereni. Quando le cose non vanno benissimo bisogna mantenere calma e serenità, che è quello che la società sta cercando di fare. Il presidente Berlusconi, l'ho sentito ieri sera, mi ha detto di tenere sulla squadra, di rincuorarli e di ricaricarli. Quindi tutto sereno, tutto tranquillo. Questa è la voce di Galliani. Giovanni da Verona, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io direi che più l'annuncio di sfratto che è un buon auspicio per lei, Allegri. Che lei è poco fiducioso sul futuro di Allegri? No, sul futuro mi dispiace per Allegri, ma sono parole di circostanze ovviamente. Una partita da disputare in Champions League, ed è chiaro che si pretende, giustamente, la società pretende che di superare questa fase. Ma è più un annuncio distratto che altro. Ad ogni modo io dico che ha fatto bene, stanno facendo bene le società a dimezzare, se possono, gli ingaggi di tutti, in modo da riportare il calcio ad una dimensione più consona alle nostre capacità economiche. Fuor di dubbio questo qui. Il Milan, ricordo ancora Rivera che ad una domanda fatta da Pigna, credo, quindi sto parlando di una domenica sportiva di tantissimi anni fa con Rocco accanto, disse: l'allenatore in campo non ci va e vale solo 20%. Io credo che sia così. L'allenatore, con i mezzi e gli uomini che ha, ovviamente fa quello che può. Allegri non può fare miracoli. E credo che non può fare sicuramente miracoli. Allegri sta avendo, e sono d'accordo con il radioascoltatore di prima, sono d'accordo, non può lavorare con un giocatore che deve ancora venire, perché è un'assurdità pensare che il mercato duri fino a gennaio e poi ancora. E poi, e purtroppo però, Giovanni, queste sono le regole del calciomercato, perché valgono per Allegri ma valgono anche per gli altri, valgono anche ad esempio per Colantuono e Ferrara che a San Siro hanno vinto. A proposito di allenatori, notizia proprio di questi minuti, è saltata la prima panchina in Serie A ed è quella, indovinate, del Palermo, perché Zamparini avrebbe licenziato Sannino. Al suo posto Giampiero Gasperini, manca l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Poi da casa ci chiedono, anche se anche senza Ibrahimovic e Thiago Silva il Milan non sia più forte della Sampdoria e dell'Atalanta, e quindi invitano Allegri a dimostrare il suo valore. È vero però anche che il Milan è una squadra e un progetto che ha perso i suoi punti di riferimento fondamentali, e quindi è difficile per un allenatore ricostruirla da capo in poche settimane, e soprattutto con aspettative ben diverse da quelle che accompagnano Sampdoria e Atalanta. Dennis da Milano. Sì, io volevo chiedere quante possibilità ci sono che anche la Juventus si trovi nelle condizioni in cui è adesso il Milan, cioè dovendo tagliare ingaggi e dovendo vendere magari pezzi da 90 e finire in queste condizioni. Per lei non è tifoso juventino, immagino. Io sono juventino. No, lo chiedevo perché ho sentito che praticamente la Juventus quest'anno ha 50 milioni di... Poco meno di 50. Poco meno di 50, però ha anche ricavi che sono fortemente in crescita. Il merito è soprattutto del nuovo stadio di proprietà, il primo in Italia, che ha consentito una crescita dei ricavi nella misura del 200% per quanto riguarda ad esempio le gare interne, e mancava ancora l'effetto della Champions League, e quindi la scommessa della dirigenza di Agnelli, di Marotta, della proprietà, è che nel prossimo bilancio la Juventus, che potrà conteggiare gli incassi della Champions Liga, che sono stimati tra i 25 e i 30 milioni di euro, e collegati a questi anche incassi aumentati per i cosiddetti ricavi da stadio, possa semplicemente aumentando il fatturato e avvicinandosi a fatturati che restano lontanissimi, cioè quelli di Barcellona, Real Madrid e delle grandi società inglesi, possa però allinearsi ai parametri del fair play finanziario. È una scommessa, bisogna dire per correttezza e completezza che quella della Juventus è unica fra tutte le società italiane, una scommessa che si appoggia su qualcosa di concreto, che è lo stadio di proprietà. Nei prossimi anni in tanti lo stanno progettando, la Juventus da questo punto di vista si è portata avanti. Grazie a Dennis. Per chiudere vi ricordiamo che Gasperini è il nuovo allenatore del Palermo, perché Zamparini ha esonerato Sannino, dunque è saltata la prima panchina della Serie A. Eravamo in debito di una voce, quella di Mazzarri, che commenta la partita di oggi del Napoli 3-1 sul Parma. Sentiamolo. Quando sbagli troppo sul 2-1, poi ha preso anche un gol balordo, sembra chi ha fatto da tanti anni calcio sa benissimo che quando si sbaglia troppo poi si viene puniti, no? È la legge strana. Infatti è venuto il 2-1 quando abbiamo colpito il pallo, e poteva essere il 3-0. E questo è che mi preoccupava. Sì, è vero, la squadra sta crescendo in solidità, mi sembra una squadra più compatta, più sicura dei propri mezzi, deve, ripeto, essere un po' più cinica, e però sono contento di tutto quello che sta facendo fino adesso, al di là dei risultati positivi. Questa era la voce di Mazzarri. Noi ci fermiamo qui stasera, Torino-Inter. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli e Pietro Lacorte in regia. L'appuntamento domani a partire dalle ore 14 con Carlo Genta, con tutti convocati.